Benvenuti nel quarto episodio di La Casa del Ciliegio. Oggi esploreremo i sette pilastri della mindfulness, quei principi fondamentali che ci aiutano a radicarci nella pratica quotidiana e che sono la base di una vita più consapevole. Partiamo dal primo. Il primo pilastro della mindfulness è il non giudicare. La pratica ci invita ad osservare le nostre esperienze senza etichettarle come buone o cattive. Quando giudichiamo, ci allontaniamo dalla realtà e creiamo sofferenza. Il non giudicare ci permette di essere più aperti e accoglienti con noi stessi e con gli altri. Il secondo pilastro è la pazienza. Viviamo in un mondo che ci spinge a fare tutto velocemente. La mindfulness ci invita a rallentare e ad essere pazienti, a comprendere che i cambiamenti richiedono tempo. La pazienza ci aiuta ad accettare il momento presente, senza fretta di arrivare a una soluzione. Il terzo pilastro è la mente da principiante. Si tratta di adottare un atteggiamento di curiosità e apertura, come se ogni momento fosse una novità. La mente da principiante ci aiuta a vedere il mondo senza pregiudizi, a lasciare andare le aspettative e ad essere presenti nel qui e ora. Il quarto pilastro è la fiducia. La mindfulness ci invita a fidarci del nostro processo e della nostra capacità di crescere. Ciò significa credere che la nostra pratica porterà risultati, anche se non vediamo cambiamenti immediati. Il quinto pilastro è l'accettazione. Invece di lottare contro la realtà, la mindfulness ci invita ad accettare ciò che è. Questo non significa rassegnazione, ma piuttosto riconoscere che la realtà è come è, senza cercare di cambiarla a tutti i costi. Il sesto pilastro è il lasciare andare. La mindfulness ci invita a non aggrapparci troppo ai pensieri, alle emozioni e alle aspettative. Il lasciare andare significa liberarsi dal peso del passato e delle preoccupazioni per il futuro. L'ultimo pilastro è il vivere nel presente. La mindfulness ci aiuta a portare la nostra attenzione al momento presente, a vivere pienamente ogni esperienza senza rimuginare sul passato o preoccuparci per il futuro. Questi sette pilastri sono le fondamenta della mindfulness. Se desideri integrarle nella tua vita quotidiana, ti invito a scoprire i miei percorsi di mindfulness e ad iscriverti al corso MBSR, che ti guiderà attraverso ciascuno di questi principi in modo pratico e applicabile alla vita di ogni giorno. Nel prossimo episodio parleremo di mindfulness per i principianti e di come iniziare a praticare anche se non hai mai fatto meditazione prima. A presto!